Ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Alessandro Benvenuti legge Metello di Vasco Pratolini. Ricominciare era difficile, ma il pane non gli venne a mancare. Cadde la neve, come non ci si ricordava dall'anno del Granduca, e per una decina di giorni ci fu da spalare. Costì Metello ritrovò Pestelli, il vecchio amico di Betto, che aveva perduto di vista, sempre più magro e fitto di rughe, ma dallo spirito allegro, sostenuto dal vino che beveva. Ora che non ce la faceva più a reggere pesi, aveva abbandonato il mercato e viveva più di prima la giornata. «Quando proprio non trovo da battere un chiodo, mi faccio venire male. Rimango lungo distesi in mezzo alla strada finché non mi portano all'ospedale. Là dentro mangi, ti riposi, ci sono sempre dei servizi da prestare. C'esce la mescita in mezzo toscano. Ma dopo un po', anche se non mi buttassero fuori, scapperei io. Malgrado i finestroni, a me lo stesso manca l'aria. Come se mi richiudesse all'ospizio, a Montedomini, salvo mi sia». Subetto, di cui tornarono a parlare mentre spingevano la neve sotto i marciapiedi e poi la mucchiavano, la caricavano sui carri e raschiavano il lastricato, disse: «Io penso e credo che in Arno non c'è cascato, ci si è buttato. Era una persona istruita, aveva vissuto bene, le sue idee non gli avevano portato che disgrazie, e alla fine, malgrado il vino che suzzava, l'acqua gli era salita alla gola prima di quella d'Arno. Bisogna esserci nati per resistere a questa vita, guai se uno è in grado di fare dei paragoni. Io ho 70 anni e sono contento di come sto. Non sono mai stato né meglio né peggio. L'importante è che non mi manchi il vino». Era di San Frediano. Aveva un figlio che vedeva ogni volta che la luna copre il sole. «È piccina Firenze, ma allo stesso ci si può sparire. Il mio figliolo sta di casa al Ponte alle Mosse, fa l'imbianchino, c'ha la sua famiglia. Cosa vuoi che vada a rompergli? Non voglio regali da nessuno». Dormiva nel retrobottega di un cenciaiolo, in via Chiara, uscio a uscio con una cantina, così si sentiva al sicuro, e fu lui ad offrire a Metello di dividere il suo letto, che era grande perché grande gliel'avevano regalato. Conosceva mezzo mondo, non soltanto tutte le bettole, ma la gente che vi capitava e persone di un certo riguardo che una volta l'anno gli camminavano a fianco. Era stato in gioventù anche lui in bianchino, e ventenne era scappato a Roma all'epoca del vascello. Ci si era incamminato a piedi ed era arrivato in tempo per le ultime schioppettate o per finire a Castel Sant'Angelo un paio di mesi, cose di cui nemmeno più si ricordava. Cose di gioventù, diceva, ma a quanto pare sembra s'avesse ragione. Betto, per la verità, era di parer contrario, e chissà non fosse proprio lui nel vero. Comunque, Garibaldi non so come fosse fatto, né Aurelio Saffi né Mazzini. Dicevano che c'erano, li rammentavano sempre nelle cerimonie. Cosa vuoi? Io fui visto e preso. Mi avevano dato un fucile, ma fece appena in tempo a sparare a mezza giornata. Ora il 20 settembre mi metto la camicia rossa e vo in corteo. Capirai, è una solennità, tu sei in divisa e ti pagano davvero. Metello si ritrovò più volte con Pestelli durante quel mese, e non soltanto a dormire. Fecero dei traslochi, ci fu una macchina da cucire che, ritirata alla stazione, si dové portare in una casa del Gelsomino, e 3 giorni di fila davvero a piantar chiodi e seminare addobbi dentro la pergola che si trasformava in un angolo di Cina per il veglione di carnevale. La mattina si alzava all'alba e andava a questo o quel cantiere, sempre per farsi vedere e perché lo tenessero presente in nota nel caso di bisogno. Ci tornava la sera, quando quei muratori staccavano dal lavoro, si accompagnava con loro e ci scappava quasi sempre una mescita, un giornale da leggere, una novità da imparare. Tra essi non c'era Chellini, col quale Metello si era ripromessa a lungo di intrattenersi e di parlare. Chellini si trovava a Porto Longone e ci sarebbe restato altri 5 anni almeno, a tanto lo avevano condannato. C'era stato un corteo il 1° maggio del 1995, doveva parlare Turati, venuto apposta da Milano, ma erano sopraggiunti i soldati a sciogliere i comizi e Chellini, che era accanto all'alfiere e alla bandiera, per difenderli, aveva dato un cazzotto al maresciallo. Gli aveva rotto, dissero, la mascella e incrinato lo zigomo. Era rimasto libero un anno tra l'una e l'altra condanna, non aveva fatto in tempo nemmeno a sposare. Di tanto in tanto si faceva una colletta per sua madre. E spesso, lasciati i muratori, andava alla camera del lavoro, spazzava la stanza e spolverava il tavolo di Del Buono. Non c'era altro da fare. Era spoglia, nuda di simboli, la cittadella dei lavoratori. La dominava, al centro della parete, un ritratto di Marx, dalla faccia affogata tra zazzera e barba, e sotto le parole «Proletari di tutto il mondo, unitevi!». Ci voleva poco. Bastava si fosse in 20 e la stanza era piena. Si discuteva sulla soglia e per le scale. Del Buono aveva 100 spiriti. Trovava per tutti una parola. Non vi pare? La realtà era che lavoro non ne usciva. L'edilizia era in un momento di crisi. Nelle campagne c'era la carestia. Andava bene per i tessitori di prato, per i ceramisti di doccia che lavoravano a turni pieni, e le fonderie aprivano un secondo capannone. Ma uno si può dare a un mestiere che non è il suo. E piano piano mi voglio avvicinare, io mi perdi, voglio salutare. Maggio l'è venuto. Ci fu, in cotesti giorni, uno sciopero di lavoranti fornai che resistettero una settimana in mezzo all'ostilità della popolazione che diceva «Abbastanza, il pane rincara, ci manca che smettano di cuocerla addirittura!». Quei lavoratori stamparono un manifesto in cui era scritto «Il pane rincara e a noi pretenderebbero di ribassare i salari. Sappiate questo, o cittadini!». Finirono per spuntarla. Riebbero quanto percepivano fino a 2 mesi prima e in più strapparono il soprassoldo della notte sulla domenica. Ed anche le sigaraie erano in agitazione. Pescetti apriva bocca e gli metteva addosso l'argento vivo. Una sera Metello accompagnò Del Buono, che doveva tenere un comizio all'uscita della manifattura di San Pancrazio. Era già buio e la piazza illuminata dal solo lampione, ma sufficiente perché, standoci in mezzo, si potessero vedere. La maggioranza era formata da gran belle figliuole. Richiamati dal baccano, erano accorsi quegli imballatori di via dei Federighi, i coltellinai e i facchini di via della Spada e via del Moro. Ci si divertivano e non potevano non convenire che avessero ragione. Le sigaraie non chiedevano aumenti, ma che i locali di lavoro fossero un po' più cristiani e vi circolasse l'aria. Nel corso dell'ultima settimana se ne erano ammalate altre 3, e quando una arrivava a sputar sangue non ci sono cure, è questione di mesi o di anni, ormai spacciata. E avevano da ridire sulla perquisizione. Non sulla perquisizione in quanto tale, ne riconoscevano il diritto, ma protestavano di doversi mettere in sottoveste tutte le sere. Dove avrebbero potuto nasconderli i toscani e i pacchetti di trinciato? Giusto lì, ma non fatemi dire delle eresie, se no mi viene rosso in viso, Questa era una di loro che parlava, Miranda, una bionda dagli occhi belli e spiritati. Con la fine del mese l'avrebbero licenziata per indisciplina, proselitismo all'odio di classe e scarso rendimento sul lavoro, dal momento che multe, sospensioni e ramanzine non erano servite a farla ravvedere. «Non parla a nome mio!» ella gridava. «Mi senta l'avvocato Bruschi dietro la finestra e lo riferisca al ministero!» Su quella finestra all'ultimo piano si chiusero dall'interno le persiane. «Non si nasconda! Mi stia a sentire! Io un lavoro lo trovo sempre! So vendere in piazza, fare la treccia, imbiancare i panni! Mi troverò anche meglio senza dipendere dal vostro lercio stato!» Non poté finire, e nemmeno Del Buono riuscì a prendere la parola. Si udì uno squillo di tromba e ruppero i soldati, in testa il maresciallo e il trombettiere. Fu un parapiglia, ma anche un fuggi-fuggi generale. Miranda era nel mezzo della mischia e Del Buono a tu per tu col maresciallo cercava di discutere. Costui lo mandò avanti con uno spintone e per riprendersi Del Buono dovette piegare i ginocchi e poggiare a terra le mani. Metello si era fatto largo, vide Del Buono così piegato e portato dall'istinto, fece per aggredire il maresciallo. «Salami!» gli gridò Del Buono. «Fermati! Ti vuoi rovinare?» Ma ad impedirgli il gesto non furono queste parole o la propria volontà, ma due soldati che lo immobilizzarono. Erano giovani come lui e indossavano la divisa che fino a un mese prima anche lui aveva vestito. Gli bastò accennare, ma energicamente, un moto di resistenza per trovarsi libero e poter scappare. Corse fino a Piazza Goldoni, dove si era raccolta la più parte delle sigaraie fuggite all'apparire dei soldati. «Miranda, l'hanno presa?» gli chiesero, e commentarono. «Finisce che la mandano al domicilio coatto, come suo padre, povera figliuola. E Del Buono? Forse hanno preso anche lui», disse Metello. «Allora cosa si fa? Pescette a Roma?» Era il gruppo delle più irresolute, delle più timide, diciamo, o meglio, delle meno coraggiose e lottatrici, perciò erano fuggite. Ma anche, ciascuna di loro, dopo le ore di lavoro, aveva una casa che l'aspettava, un fornello da accendere, dei ragazzi da smoccicare. Sul fondo di via del Moro apparve il drappello dei soldati in colonna. Anche gli omnibus e le carrozze si erano fermati. La gente riparava sui marciapiedi. Il gruppo delle sigaraie tornò a scompigliarsi. Chi imboccò ponte alla carraia, chi le stradette laterali. Nel gesto che essa fece per sfuggire, una di costoro venne a scontrarsi con Metello. Egli la riparò e istintivamente la trattenne per una mano. «Mi lascia andare!» ella gridò. Così si ritrovarono l'uno accanto all'altra, sul marciapiede, e poi scantonarono per illungarlo. Era una bruna, dalla gran corona di capelli attorno il capo, la fronte tutta libera e gli occhi come d'oro. Si fermarono un attimo sotto un lampione del Lungarno. Lontano, il drappello dei soldati passava tra la gente. Lei sorrise. Aveva il viso sciupato, ma quegli occhi lo illuminavano. Una cicatrice piccola, ma che si vedeva dalla fossetta sotto il naso fino a metà labbro, un po' la deturpava e un po' l'illeggiadriva. Ora rideva d'aver avuto paura. Aveva i denti bianchi e fitti, uno splendore. Dimostrava 20 anni. E forse non li aveva. Gli posò una mano nella sua. «Senta come sono ghiaccia», gli disse. Poi gli chiese: «Lei è il fidanzato di chi? Non mi pare di averla mai vista all'uscita della manifattura». «No, ero venuto per Del Buono», egli rispose. «Ah!» lei esclamò e rise, e la sciocchezza che disse, portata dal discorso, li avvicinò, sembrava a Metello, come dei vecchi amici. Ella disse: «È il fidanzato di Del Buono? Un bel modo di rispondere! Sono un muratore», egli disse. «Ah!» ella esclamò, «è un mestiere soggetto al tempo». «Già, ma quando si lavora, mi immagino», disse lei. Si staccò dalla spalletta dove prima si era appoggiata e riprese il cammino. Egli disse: «La posso accompagnare?» «Non mi pare di averle detto di andar via. Io abito in San Frediano. Se anche la sua strada, se ne fa un pezzo insieme». Erano tutte sue le strade, e maggiormente quelle che portavano a San Frediano in quel momento. Risalirono ponte alla carraia, e lei gli chiese: «Ma sta da queste parti?» «Ma che, sto in via Sant'Antonino». «Ah, allora mi accompagna proprio per farmi da cavaliere?» Sorrise, e lo guardò dritto in viso. «Sono una sigaraia. Questo non le torna nuovo?» «No», egli disse. «E appunto...» «Appunto cosa?» «No, e voi sigarai non vi fate scrupolo se vi vedono con un uomo?» «Male non fare», lei disse. Scesero su via dei Serragli. Lei disse: «E quali sarebbero le sue intenzioni?» «Serie, glielo giuro». «Bravo», ella esclamò. Erano sull'angolo di Borgo Stella, dove lei si era fermata. «Mi vuol davvero accompagnare fino all'uscio di casa?» gli chiese. «Mi basterebbe sapere che ci si rivedrà, magari domani sera». Ella scoppiò in una risata, lo spinse lievemente con la mano sul petto e con tono divertito e a suo modo affettuoso: «Bischeraccio!» gli disse. «Non c'ho la fede al dito perché l'ho dovuta impegnare. Mio marito è muratore, come lei, prova a indovinare. Si è trascinato tutto l'inverno una polmonite, ma se ci vedessi insieme sotto casa», aggiunse, «anche convalescente com'è, sai le labbrate? Dica a me, ma anche a lei, sa? Lei a cazzotti ci sa fare?» Metello era rimasto sorpreso più che deluso, e dapprima senza saper che dire. Lei di nuovo sorrise, disse: «Su, non mi vuol dar nemmeno la mano?» E dopo che si erano stretti la mano e lui non aveva saputo aggiungere altro che «buonasera», con una dolcissima voce ma ironica strafottente: «Buonasera», ella gli rispose. «Dorma bene». E finalmente, popolano e di Firenze quale anche egli era, riuscì a far sua l'ultima parola: «Mai come con lei, bellona!» Ella staccò la corsa, portandosi la propria risata, scomparve dietro Piazza del Carmine. Soltanto tornando indietro solo, scuotendo il capo tra sé e sé e risalendo il ponte, Metello si ricordò che era suo dovere interessarsi della sorte di Del Buono. Cautamente si aggirò sotto la camera del lavoro e, siccome non la vide piantonata, entrò. Del Buono sedeva al suo tavolo, attorniato da alcune di quelle donne, e scriveva il testo di un manifestino di protesta contro gli abusi dell'autorità e per via dell'arresto di Miranda e di altre due sigaraie. Quindi si trattò di trovare i denari per stamparlo quella notte stessa, che non v'era ormai tipografia che non gli richiedesse i quattrini anticipati almeno per la carta e l'inchiostro, anche se si trovava un tipografo animato dallo stesso ideale. Metello si frugò nelle tasche e vi contribuì con un ventino. E infine, a furia di pellegrinare di cantiere in cantiere, di insistere, di farsi vedere, Metello risalì sui ponti. L'importante, anche se fosse durato poco, era tornare in squadra, sotto un'impresa che poi, quando c'è lavoro, ti manda a chiamare. Era la stessa impresa alle cui dipendenze era entrato 8 anni prima, aiuto manovale, e che ora aveva in opera un lotto di case nella zona del Romito. Le assunzioni, insieme al caporale, le faceva personalmente l'impresario, che dirigeva anche i lavori. Si ricordò di lui, o almeno così dette a vedere, e lo qualificò senz'altro muratore. «Occupati di politica, se sei di quelli che se ne occupano, ma lontano dal cantiere. Qui, lo sai, si rende 100, e chi non rende 100 si trova un'altra impresa», gli disse l'ingegner Badolati. «Ci siamo intesi?» Era un uomo ormai anziano, stempiato, e col cappello sempre buttato all'indietro. Era magro, alto, e non era aguzzino. Stava sui ponti da mattina a sera, la fatica la sapeva giudicare. Quando si copriva il tetto, offriva il pranzo. Lui si sedeva a capotavola e c'era vino abbastanza, volendo per potersi ubriacare. Era venuto su dal nulla e si diceva, era pur sempre il padrone, ed era d'altronde la verità, che avesse case e case in città, la villa al mare e una fattoria in Casentino grande da viverci 20 famiglie di contadini. Di più! Suo padre era stato caporale, molti lo ricordavano ancora. E la sua memoria non aiutava certo a voler bene al padrone. Aveva finito di arricchirsi coi lavori del nuovo centro, nell'appalto dei quali aveva avuto la parte del leone. Tutto grazie alla moglie, si diceva, forte di conoscenza in comune, siccome da ragazza faceva Niccolini. Ma Niccolini di quinto o sesto grado senza più blasone, o forse addirittura figlia di qualche serva e riconosciuta poi come naturale. Tuttavia questo non toglieva granché alla stima che si portava all'ingegnere. I suoi caporali, al solito, erano molto più iene di lui. Pagava il massimo di salario, e non gli si poteva rimproverare come una colpa sua personale se con questo massimo, 30 centesimi l'ora, a chi aveva famiglia restasse poco da scialare. Limitandosi al pane, che negli ultimi tempi si era messo a far le capriole, per comprarne un chilo bisognava lavorare un quarto di giornata. Metello era solo, e capace di fare economia più di quanto non gli fosse di già necessario. Intanto aveva lasciato il retrobottega di Pestelli e dormiva nella baracca al lato del cantiere, coi compagni di lavoro che abitavano in campagna e tornavano a casa una volta alla settimana, su uno strato di trucioli o di balle, o su un pezzo di panconcello. Lo preferiva. Era ugualmente duro, ma la sfoglia del legno, siccome era d'estate, buttava meno calore. Meglio del letto di Pestelli, non c'era paragone. Comunque, aveva di che essergli grata al vecchio Pestelli, che adesso si trovava all'ospedale, questa volta non per finzione. L'artrite l'aveva preso non alle gambe o alle braccia, ma al cuore. e facendo durare un sigaro 3 giorni, mangiando asciutta anche la sera, bevendo 2 diecini in tutta la giornata e mettendo in mezzo al pane invece di trippa o frittata, polpette e fiori di zucca comperati in rosticceria, dopo 3 settimane che era tornata al lavoro, poté affittare nuovamente una camera ammobiliata. Staccava alle 6. E tra lavarsi e vestirsi dei panni da cristiano, le 8 lo trovavano ancora davanti allo specchio a ravviarsi i capelli. E la stanchezza c'era. C'era anche che gli piaceva, quando avesse potuto, e presto avrebbe potuto, andare a sentire l'opera dall'Oggione del Pagliano, o lo stenterello Niccoli al Teatro Goldoni. Diradò sempre di più le sue visite alla Camera del Lavoro. Ripigliava fiata appena allora, dopo anni di incudine, gli ci voleva qualche distrazione. Ed era maggiormente persuaso, poteva parlare con una certa esperienza, della sua antica regola di vita, mai essere né il primo né l'ultimo a farsi avanti o a tirarsi indietro. Ce l'avrebbero dovuto costringere le circostanze. Ora, prima di addormentarsi, leggeva il manifesto dei comunisti e si proponeva di mandarla a memoria. Comprò su una bancarella I lavoratori del mare e La Divina Commedia, tutte cose da leggersi e studiare. 6 mesi dopo, in settembre, poté farsi un vestito nuovo, che un poco alla volta avrebbe finito di pagare. Fagioli o le otenne, galletti senza penne, minestra sulle palle, aringhe affumiate, corbette di patate, agnello in friassea, 3 crognole, una cena, patate nittegame, una verdea. Vorrei mangiare città, ma com'è brutto fare strada a piedi, specie se c'hai una fame e non ci vedi, e dal cinghiale andai, dai torricelli, faceva la polenta, ma con gli uccelli. Cotesta domenica, come al solito, andò a trovare Pestelli all'ospedale. Aveva in tasca un toscano e nascosto sotto la camicia un bottiglino di vino. Ma Pestelli non ne doveva approfittare. Era morto il mercoledì e adesso si trovava sottoterra almeno da 100 ore. Gli infermieri gli dissero che aveva avuto delle onoranze che non si sarebbe mai sognato. La salma era stata rivestita dell'uniforme da garibaldino. Oh, davvero Firenze era piccina, ma si poteva lo stesso sparire per sempre, senza che ti chiudesse gli occhi un vero amico, come Betto, come Pestelli. Erano trascorsi 10 anni dal giorno in cui Metello era passato sotto porta alla croce, arrestandosi in piazza del mercato, e di già dei ricordi lo rattristavano, più di quanti il suo spirito ne avrebbe desiderati. Era settembre, e fuori l'ospedale c'era un gran sole. Andò alla fortezza d'Abbasso, dove si trovavano gli stessi soldati della villa comunale, le stesse cameriere e le stesse balie con le carrozzine. Malgrado non fossero il suo tipo, egli sentiva d'aver bisogno di parlare con una donna e intrattenersi con lei su tutt'altre cose che non fossero la politica, il lavoro, la scomparsa di un amico. Quella era la scelta che più facilmente gli si offriva: il giardino, le panchine, la vasca in mezzo coi pesci rossi e argento. Aveva il suo vestito nuovo e lo sapeva portare. Era in grado di scegliere fior da fiore. Un'istitutrice, una tedesca dai denti di cavallo e 2 occhi grandi e chiari chiari, richiamò la sua attenzione. Giovane da sembrare adolescente, ma di certo non lo era. I suoi capelli, chiusi sotto il velo azzurro che le ricadeva dietro le spalle, non si potevano vedere, ma il seno, seppure mortificato sotto la divisa, non riusciva a nascondersi. Ilse sapeva l'italiano a suo modo, ma ci si capiva, e aveva libero quel pomeriggio della domenica. Lo consumarono insieme dentro i canneti del Mugnone, laddove da una parte c'era la strada ferrata e dall'altra le cascine. Ella diceva «Gut, gut, gut!» e rovesciava gli occhi come stesse per morirli tra le mani. Fu bello, ma gli fece impressione. Dandole appuntamento per la domenica successiva, egli era certo di dover mancare, C'erano tante figliole attorno a Romito e dalle parti di Rifredi. Basta cercarle le occasioni. Egli era partito da Cosetta per arrivare a Ilse, ma soprattutto aveva contato Viola. Dal greto della Sieva ai canneti del Mugnone, la sua educazione sentimentale ne aveva fatto di cammino. Se in avanti o all'indietro, non avrebbe saputo dire. Ne sapeva ancora che l'occasione, quella vera, avrebbe portato sui capelli e in viso i colori di San Frediano. Da un certo giorno, accanto a Metello, troveremo il Silvia. Ne durò molto il tempo spensierato, nemmeno un anno, e ora si profilava la disoccupazione. Già nel cantiere si incominciava a licenziare. Certi badilanti e manovali, come alcuni muratori specializzati nelle fondamenta e negli scalini, non servivano più. I lavori assunti in appalto dall'ingegner Badolati per conto della fondiaria, 14 mesi prima, stavano, almeno riguardo la parte in muratura, per essere ultimati. Era un lotto di 6 case di 4 piani e si era proceduta a edificare 2 immobili alla volta, a turni pieni, squadre al completo e ritmo accelerato. Nei primi 2, consegnati in ottobre, c'erano già gli inquilini. Erano state aperte una macelleria e una canova. E i 2 ultimi avevano raggiunto il 3° piano, per cui tra un mese, coperti che fossero, non sarebbe restato che spolverarsi le mani. Il resto era compito di falegnami, decoratori e trombai, che ora stavano rifinendo il 4° fabbricato. Il sabato sera era novembre e il sole non si finiva di scendere dai ponti che era tramontato. L'ingegnere li aveva riuniti e, fatte le paghe, gli aveva detto che chi pensava di potersi occupare altrove non si lasciasse sfuggire l'occasione. «Io non voglio sacrificare nessuno», aveva detto. «Nell'altro cantiere che ho alle cure, posti non ce n'è, sono al completo. E per il momento non ho in vista altri lavori». Alessandro Benvenuti ha letto Metello di Vasco Pratolini, regia di Francesca Zammarelli, a cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini, ad alta voce @rai.it.